Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Mentre oggi sono solo leggermente più tranquilli i mercati, nel senso che Parigi perde l'1,30% e anche Milano, Francoforte va meglio, meno 0,40%, e meglio fa anche Londra, meno 0,34%, con l'America che perde lo 0,65%, il nostro spread è leggermente sceso ma sotto i 370 punti, resta sempre invece alto quello tra Madrid e Berlino, ossia 450 punti, la differenza tra quanto costa alla Germania indebitarsi e quanto costa invece alla Spagna. E da questo punto di vista abbiamo avuto, c'è qualche notizia che arriva dalla Spagna in senso lato, ossia la regione spagnola della Murcia ha chiesto al governo di Madrid un aiuto da mezzo miliardo di euro, superiore a quello previsto da 300 milioni. Ancora, secondo il Paese, 6 banche spagnole su 14 avrebbero superato gli stress test condotti per conto del governo dalla società americana Oliver Wyman. L'inflazione in Spagna cresce al 3,5%. Devo dire che cresce anche da noi l'inflazione, nel senso che è stabile sul mese, è abbastanza stabile anche sull'anno, al 3,2%, ma se si va a guardare il cosiddetto carrello della spesa, cioè le spese più frequenti, beh, lì l'inflazione è al 4,7%. Come mai, direte voi, visto che i consumi sono fermi, anzi in netto calo? Beh, perché pesa il carburante. La benzina ha fatto più 4%, più 20% rispetto all'anno precedente, il mese settembre, il gasolio più 21% rispetto al settembre del 2011. Questo ha un impatto diretto sul paniere, ma anche indiretto, nel senso che tutte le merci che utilizzano il carburante da autotrazione per essere spostate poi hanno dei rincari. C'è una contraddizione però, o meglio un'apparente contraddizione, dopo lo sbarco negli Stati Uniti oggi è arrivato anche in Italia l'iPhone 5, nonostante la crisi e i prezzi elevati, perché il modello base costa 729 euro, ma se uno vuole comprare il modello dell'iPhone 5, quello a 64 GB, quello più potente come memoria, spende quasi 1000 euro, anche da noi fila e file di persone, centinaia di persone dopo la notte bianca organizzata dai punti vendita, che è finita questa mattina alle 8, poi si sono aperte le porte degli Apple Store. In realtà lo spieghiamo da molti mesi, da anche anni, e cioè siamo di fronte nei consumi soprattutto a una neosobrietà più che a neopovertà in senso stretto, e cioè c'è una ridefinizione delle priorità di consumo, non c'è un taglio netto su tutte le spese, alcune spese vengono tagliate in maniera brusca, vedi il caso dei beni durevoli, automobile ma non solo, della moda, altre invece, sarebbe troppo lungo, ne abbiamo già parlato, spiegare il valore aggiunto che vi si vede, vengono mantenute, l'elettronica da consumo è una di queste, l'iPhone 5 rientra in questa categoria. Queste le notizie in breve, in realtà oggi torneremo a parlare delle regioni italiane, lo faremo col segretario federale della Lega Nord Roberto Maroni, oggi a Torino infatti è iniziata la prima giornata dei 2 giorni che vedranno confrontarsi imprenditori e esponenti della Lega, arriverà domani anche il presidente di Confindustria Squinzi, il ministro allo sviluppo economico Passera, e con lui cercheremo di capire che cosa non stia palesemente funzionando in questo federalismo, visto che le regioni, invece che essere più virtuose di Roma e dello Stato centrale, se possibile hanno fatto anche peggio in molti casi, non in tutti, ci mancherebbe. I nostri GR vi hanno aggiornato, indagini della Guardia di Finanza sia della Regione Piemonte, dopo le dichiarazioni che poi facciamo anche risentire di quel consigliere del PDL che spiegava come il suo collega piemontese fosse riuscito a guadagnare 5.000 euro in una settimana stando ospite da lui a Sestriere ma risultando in missione, ma anche indagini nella regione Emilia-Romagna, e anche qui non abbiamo altre notizie, ma insomma è chiaro che si stanno moltiplicando i casi, ci sono indagini in corso anche sull'Assemblea regionale siciliana, ma è chiaro che a questo punto, come da intervento oggi del Presidente di Confindustria Squinzi sul Sole 24 Ore, c'è qualcosa di malato, di che non sta funzionando in questo federalismo in cui tutti hanno, sì, sono padroni a casa propria, cito testualmente, ma le spese e i conti li pagano gli altri, e poi non c'è responsabilizzazione nella spesa, cioè manca un anello fondamentale. Tu spendi quello che chiedi ai tuoi cittadini, ma ne sei poi responsabile, nel senso che se poi sfori il budget aumenti le tasse ai tuoi cittadini ed eventualmente verrai non rieletto. In questo momento in realtà il meccanismo non è così e il patto di stabilità interna non sta reggendo, al di là del fatto che al di là delle spese uno debba anche controllare come questi soldi vengono spesi, e abbiamo qualche chicca anche oggi. Di nuovo in auge il mitico Batman, mitico si fa per dire, e quindi Franco Fiorito, capogruppo del PDL alla Regione Lazio. 349-238-6666 per i vostri sms. Avremo anche un approfondimento, come facciamo da settimane, con gli imprenditori che vedono aumentare il fatturato, crescono, investono in ricerca e sviluppo, i consigli che possono dare a altri imprenditori o manager in ascolto. E allora però le altre notizie in breve. Partiamo dalla borsa, dicevamo negative tutte le borse europee, Milano tra le peggiori, la peggiore in questo momento è Parigi, però A2A perde il 3,40%, la Popolare di Milano il 3,30%, la Popolare Emilia Romagna il 3%, come il Monte dei Paschi, Unicredit meno 2,60% come media, 7 Fiat Industrial, il 2,20% lo perde Enel Green Power, il 2% Enel, ma anche UbiBanca e Ansaldo STS, l'1,80% di calo è Campari, e quello di Campari è Intesa San Paolo, ma anche delle Generali. 1,60 invece perde il Banco Popolare, Steam Microelectronics e Mediolanum. Bene, Finmeccanica più 2%, Terna più 0,50%, Pirelli più 0,36%. Una buona notizia arriva oggi dal forum dei giovani imprenditori di Federalimentare. Dopo 2 anni difficili, 7 aziende alimentari su 10, cioè il 70%, hanno in programma nuove assunzioni nel biennio 2013-2014. E chi poi lavora sui mercati esteri va ancora meglio, nel senso che lì si arriva al 75% sui mercati esteri. E si cercano soprattutto tecnici della qualità ed esperti di marketing. Ma anche nuove professioni come il manager della sostenibilità e l'analista del gusto. Ancora una notizia dal Salone dell'Auto di Parigi, nessun cambio al vertice della CEA, che è l'associazione che rappresenta i costruttori europei di automobili, nonostante gli scontri del passato con Marchionne. Anzi, oggi sia Sergio Marchionne che Martin Winterkorn, cioè il capo della Volkswagen, hanno detto di non essere in contrasto, siamo buoni amici, abbiamo risolto ogni divergenza. E poi Marchionne ha detto che il Monti Bis sarebbe un passo in avanti per il paese, darebbe credibilità e toglierebbe molta incertezza. Visto che parliamo di credibilità e incertezza, facciamo notare a Marchionne che anche sapere esattamente quali saranno i progetti di investimenti di Fiat nei prossimi anni in Italia darebbero maggiore credibilità alla Fiat e anche minore incertezza. Però Marchionne oggi ha continuato, ha detto: guardate le quote in questo mercato, guardare le quote nel mercato auto non vale un cavolo, la quota ha un prezzo, siamo arrivati in America con la Chrysler, eravamo al 10-11%, siamo usciti al 5% e poi per ripulire i canali e poi adesso lo riporti dal 10%. È facile fare le quote se regali le vetture alla gente, le quote salgono. (349) 238 6666 per gli sms. Allora, vedo già molti messaggi, adesso rispondo. un po' per volta. È vero che in Spagna le regioni autonome sono tutte in difficoltà, vedremo cosa succederà poi con la Catalogna, ma adesso occupiamoci delle regioni italiane. Abbassare, puttare che più, la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, superpensioni, tre che più, ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, tre che più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues, tre che più. Da dove partiamo oggi? Partiamo da quello che sta emergendo sulle spese di Franco Fiorito? Anzi, dai, partiamo da lì. Allora, si girava praticamente buona parte dei soldi destinati alla promozione politica, secondo me è sbagliato anche questo. Comunque si è scoperto che nel registro degli indagati sono stati iscritti i suoi segretari Bruno Galassi e Pierluigi Boschi, cugino di Fiorito. Entrambi autorizzati a operare sui conti correnti del PDL presso la filiale Unicredit nella sede della Pisana. Boschi si è girato almeno due assegni da 2.200 euro ognuno e poi rischia di finire sotto inchiesta anche l'ex fidanzata Samantha Reali, che ha beneficiato di compensi per almeno 4 mesi. Ma ci sono alcune uscite curiose, dicevo, perché Fiorito, per fare attività politica sul territorio, ha speso 4.120 euro il 12 aprile nella cartoleria più prestigiosa di Roma, Pinaider. 4.120 euro, immagino, per promuovere l'attività politica sul territorio. 3.000 euro per il pernottamento in un villaggio turistico, anche questo immagino fosse parte dell'attività politica sul territorio. 4.200 euro per la società Image, che vende manifesti e quadri. E poi le autocertificazioni. Pensate che nel Lazio l'onestà del consigliere è tutto, perché la via card, per esempio, è fornita dall'amministrazione e il politico a fine mese autocertifica tutte le volte che l'ha usata per motivi di lavoro o le volte che l'ha usata per motivi privati. È sufficiente che però risponda mai e lo stipendio resta intatto. Sarei curioso di vedere quanti hanno scritto ho usato la via card per andare con la fidanzata lì. Ma... praticamente, come raccontano molti consiglieri, subito dopo l'elezione bisogna riempire dei moduli in autocertificazione. Tra le informazioni richieste, la residenza, in base alla distanza dal consiglio al politico spetta un rimborso. Per esempio, se uno sta a 64 km ha 385 euro, maggiore la distanza maggiore la cifra pagata. I maligni, ma sono maligni, ipotizzano addirittura che alcuni abbiano cambiato la residenza per risultare abitanti di comuni lontani, lontanissimi, alle periferie del Lazio, dalla Campania e la Toscana. E poi vediamo invece a livello nazionale come viene, quanto costa ogni cittadino la spesa sociale, a livello delle regioni la spesa sanitaria. Allora, la spesa farmaceutica pro capite, quella lorda, cioè quella che comprende anche la quota a carico dei cittadini attraverso il ticket, è stata in Italia nel 2011 pari a 204 euro in media, ma si va da un minimo di 149 euro nella provincia autonoma di Bolzano a un massimo di 258 euro per la Sicilia, anche la Puglia è sopra la media, 235, Lazio 234, Campania 234, Calabria 231, Sardegna 230, Abruzzo 220. La regione che spende meno come spesa farmaceutica pro capite è la Toscana, 167, poi l'Emilia, 170, Lombardia e Valle d'Aosta, 180. Ora io dico, la classifica è analoga anche nella spesa farmaceutica netta, quella a carico dello Stato. Ora, io capisco tutto, ma ci rendiamo conto che le regioni che hanno la spesa farmaceutica più alta sono quelle in cui la sanità funziona spesso peggio? Cioè, Bolzano ce l'ha più bassa con l'Emilia Romagna, la Val d'Aosta e la Lombardia. La più alta ce l'hanno Sicilia, Lazio, Campania, Calabria, Sardegna, Abruzzo. E vai così. E poi le inchieste della Guardia di Finanza nella regione Piemonte. Sapete da cosa è nata? Da quella dichiarazione che vi abbiamo fatto ascoltare 3 giorni fa del consigliere del PDL Roberto Rosso, che raccontava come il suo collega di partito e consigliere della regione Piemonte, ospite suo al Sestriere, fosse riuscito a guadagnare 5.000 euro in una settimana semplicemente dicendo che lui era fuori per lavoro, come si direbbe in gergo, no? Tra vitalizi e quant'altro. Io ve la faccio riascoltare, perché oggi Rosso ha avuto la faccia tosta di dire: feci solo un paradosso, non datemi tutta questa importanza, quando ho scoperto che la Guardia di Finanza si è mossa sulle sue dichiarazioni. Rosso, a parte il fatto che doveva denunciare lei, il suo collega, non aspettare un anno dopo la Guardia di Finanza, ma non pigliamoci in giro. Sentite che cosa ha detto 3 giorni fa il programma Tele Lombardia Iceberg. Io racconto una vicenda che mi è capitata personalmente. Ospito a casa mia, a Sestriere, un mio amico consigliere regionale. Questo qui vedo che tutti i giorni va a farsi firmare una cosetta, da un documento da un consigliere comunale di Sestriere. Non so cosa serve sta roba. Poi alla fine della settimana bianca questo qui mi fa capire che ha guadagnato 5.000 euro in più. E dico: ma come hai fatto a guadagnare 5.000 euro per aver fatto una settimana bianca a casa mia? E mi spiega l'arcano. Cioè, ogni giorno il consiglio regionale del Piemonte paga l'indennità come se fosse andato a fare tutti i giorni consiglio regionale, per il fatto di essere andato a fare la settimana bianca a casa mia, ma essersi fatto firmare da un consigliere comunale il fatto di essersi spostato a Sestriere. Poi paga l'indennità di missione a costo chilometrico, cioè da San Germano a Sestriere e ritorno tutti i giorni. Quindi questo aveva guadagnato quasi 1.000 euro al giorno per essersi venuto a fare una settimana bianca a casa mia a Sestriere. Abbassare, puttere che più, la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, superpensioni, puttere che più, ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues. E vaffan blu, perché voglio dire, molti ascoltatori fanno notare che Rino Gaetano cantava questa canzone più di 30 anni fa, ahimè, più di 30 anni fa. Il Sole 24 Ore, ma ne parleremo dopo con Roberto Maroni, anche oggi stima, e sono stime incredibili, quanto sono aumentate le spese correnti regionali dal 2001 al 2010, più 40%, da 107 a 151 miliardi di euro. In Campania più 448% in 10 anni nelle spese per consumi, non per investimenti in asili, scuole, sanità, consumi. Più 108% in Molise. La Puglia invece si distingue per le spese di consulenza, più 664% in 10 anni nella consulenza. Governatore Vendola, ne riparliamo? E poi Sardegna più 554%, Sicilia più 312%, sempre in consulenza. La Calabria ha il record invece dell'aumento delle spese per il mantenimento degli organi politici, più 313%. Tra le regioni virtuose, le segnalo perché va detto anche questo, virtuose, che fanno il loro lavoro più che virtuose, le Marche e la Lombardia. Chiudiamola qua, perché vorrei parlare con persone serie che fanno il loro lavoro, che vanno sui mercati, che conquistano quote di mercato, che creano utile, fatturato, che investono, e parliamo anche di sanità. E però anche oggi la chiudiamo qui con l'appello Sidney Lumet, Quinto Potere, e lo stacchetto nostro finale. Voglio che vi alziate proprio adesso, andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Nerio Alessandri, presidente e fondatore di Tecnogym, buonasera. Buonasera a voi tutti. Va bene così? Sì, nel senso che noi siamo sempre... Non dico, va bene così con quello che ho appena letto? L'ha sentita la prima... riguardo l'Italia, no, di sicuro, cioè noi pensiamo in un modo diverso. Abbiamo, diciamo, una competizione quotidiana e siamo, ci confrontiamo col mondo intero tutti i giorni e quindi viviamo di mercato e di concorrenza, ma che è molto interessante. Quanto fate voi di fatturato all'estero ormai? Il 90%, 90%. È estero, sì, quindi l'Italia rappresenta il 10%. Allora, il motivo per cui lei è nostro ospite è che domani a Cesena inaugurerete il Tecno Gym Village e quindi voi siete leader mondiale nei prodotti per il cosiddetto wellness, ma non solo le palestre, c'è anche tutto il tema più legato alla sanità della riabilitazione motoria. E domani arriverà il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, i ministri Corrado Passera e Balduzzi e anche Bill Clinton per un keynote speech. Lui è presidente di una fondazione impegnata nella lotta all'obesità giovanile, che è un tema serissimo negli Stati Uniti, ma non solo lì. Quanto avete investito? Cosa sono? 17 ettari, 65.000 metri quadri? Mamma mia. Dunque, allora, il Tecno Gym Village è il primo wellness campus al mondo. È non solo una fabbrica dove produciamo i nostri prodotti, attrezzi da ginnastica e riabilitazione, ma anche e soprattutto formazione. Abbiamo creato la prima università sul wellness, quindi attività, diciamo, di educazione, e si può vivere all'interno del Tecno Gym Village l'esperienza wellness, quindi architettura, design, qualità dell'ambiente di lavoro, un ristorante wellness, un parco, quindi l'emozione, diciamo, l'esperienza che si può vivere all'interno del Tecno Gym Village è un prodotto, così come noi lo chiamiamo wellness, che vogliamo esportare in tutto il mondo, fatto di contenuti, device, applicazioni, software. Oggi ci sono le cosiddette app, abbiamo sviluppato un software per creare la comunità del wellness, mettere in relazione le assicurazioni con i centri sportivi, i centri medici, con le aziende, quindi creare un vero e proprio network, una vera e propria comunità del wellness. E Tecnogym ha realizzato appunto questo nuovo insediamento per sviluppare prodotti e servizi innovativi per il futuro. Allora, voi, questo è l'investimento che avete fatto. Tra l'altro, voi avete un fatturato di 400 milioni di euro, ma soprattutto avete messo a colpo dei segni, l'ultimo fornitore esclusivo delle Olimpiadi di Londra 2012, 20 palestre per 15.000 atleti, tutte le siete da voi, ma tra l'altro avete attrezzato 150.000 palestre nel mondo, comprese quelle dentro gli edifici di Google e di Facebook, nella Silicon Valley o del Manchester. Quindi avete una panoramica, ragionammo la settimana scorsa con il leader, il manager mondiale della Sanrio, che è quello che produce Hello Kitty, e vuol dire, non sorrida, ma quello è un business con 12.000 prodotti e 1.100 licenze al mondo, da Marks & Spencer a OVS. Noi abbiamo circa 35 milioni di utenti che quotidianamente utilizzano Tecnogym, un marchio italiano, il made in Italy nel mondo. Siamo molto orgogliosi di portare nel mondo la bandiera. Grazie alle Olimpiadi, che ha visto più di 12.000 atleti da tutto il mondo utilizzare i prodotti fatti in Romagna a Cesena, questo per noi è un grande orgoglio, è un sogno che continuiamo ad alimentare, perché abbiamo una squadra di giovani, di persone che ci credono, che è la squadra, la famiglia Tecnogym, e la nostra chiave, diciamo, di crescita è l'innovazione, un'innovazione a 360 gradi che parte dall'investimento in ricerca e sviluppo, nel marketing, nelle vendite, nei processi, ma soprattutto nella valorizzazione delle risorse umane. Minuti, vorrei concludere l'intervista con il fondatore, proprietario di Tecnogym. Appunto, portiamo spesso casi di successo di imprenditori che continuano a guadagnare quote di mercato e a stare sui mercati, per dare elementi anche positivi, più che positivi, propositivi. Cioè, si reagisce a tutto, tanto questa non è una crisi, lo abbiamo capito, Nerio Alessandri, è un cambiamento strutturale, di paradigma, direbbe chi ha studiato. Le crisi sono cose più brevi, che arrivano e poi si ritorna al punto di partenza, quando non si ritorna più al punto di partenza. Allora, voi come l'avete affrontata, ma soprattutto concretamente, lei, visto che qualche imprenditore, manager ci sta ascoltando, che consigli può dare a loro? Ha ragione lei nel dire che questo non è un periodo di crisi, ma questa è una nuova normalità. con la quale dobbiamo confrontarci per anni, perché i nuovi riferimenti sono l'Asia, sono il Sud America, sono i paesi emergenti, quindi bisogna cambiare le nostre agende, le nostre priorità e modificare proprio quella che è la nostra focalizzazione, stare sui mercati emergenti, ci sono tantissime opportunità nei mercati emergenti, guardare lo sviluppo delle tecnologie in quei paesi, in termini di ricerca, in termini di sviluppo e quindi non solo dall'Italia, ed essere assolutamente affamati, cioè nel senso bisogna tornare come eravamo negli anni 60, negli anni 70, con molta molta fame, quindi con anche e soprattutto l'orgoglio di essere imprenditori, di creare diciamo lavoro, e significa rischiare, significa prendere coraggio, non ci sono formule magiche o segrete, io penso che tutti siamo in difficoltà, tutti sappiamo quanto è fatica competere, tutti siamo consapevoli di quanto sia difficile diciamo stare sul mercato, però bisogna essere positivi, non c'è un'altra strada, quindi è meglio affrontare diciamo con entusiasmo, con passione e soprattutto in momenti come questi bisogna anche come dire essere un po' incoscienti nell'investire, noi credo che abbiamo dimostrato di crederci e quindi ragionare nel lungo termine significa comunque avere delle grandi opportunità, perché il mondo è veramente molto molto grande. Quali sono le aree che voi vedete muoversi? Perché per esempio il suo collega della Sanrio, quindi di Hello Kitty, diceva che si era fermata anche un po' la Cina, cioè che qualche problema che il Brasile teneva come consumi, perché voi lavorate in un campo assolutamente di consumi, di leisure o wellness, come lo chiamate voi. Sì. Vede qualche segnale di difficoltà oppure dal vostro punto di vista osservatorio continuano a essere Cina, Brasile, India, un po' di Russia, Turchia? Ma ci sono dei nuovi paesi come il Messico che nessuno cita, che invece è in fortissimo sviluppo, ci sono dei paesi come il Canada per esempio, che in questo momento, l'Australia, sono due paesi in forte crescita, tiene comunque abbastanza la Germania, la Turchia è molto molto forte, ci sono comunque degli spazi come la Malesia, l'Indonesia nuovi da conquistare, quindi per non parlare sempre della solita Cina, sempre della solita India e ora del Brasile che va tanto di moda, cioè bisogna stare attenti a seguire le mode, perché poi quando è di moda vuol dire che è troppo tardi, però con un po' di curiosità e con un po' di come dire creatività, se ci si organizza bene dal punto di vista commerciale e quindi in un processo vero di internazionalizzazione e quindi valorizzando le culture locali, perché il concetto è di pensare in modo globale ma agire in modo locale, quindi questo approccio cosiddetto glocal, io penso che l'Italia abbia delle opportunità. È chiaro, tutti aspettiamo che il dollaro vada in parità con l'euro, se sarà così avremo delle grandi chance. Ora è più difficile combattere contro gli americani e contro i paesi basati sul dollaro, perché comunque c'è una sconcorrenza diciamo che è evidente di circa il 20%, io credo che non dobbiamo assolutamente mollare la presa in questo momento, ecco. E chiedo soprattutto ai media di essere positivi, perché diventa veramente difficile per gli imprenditori investire sentendo sempre parlare male, sempre con grandi pessimismo. No, si figuri, è che i casi purtroppo ci arrivano addosso più che cercarli ormai. Ma mi dica una cosa, Alessandri, quindi ha torto Marchione nel dire insomma l'Italia è piena di zavorre, l'Europa, l'Italia non è, dare la sensazione che questo non sia un paese per investimenti? Ma lui non conosco bene quello che pensa e se quello che dice è ciò che fa, quindi questo non lo so. Io penso da cittadino italiano e da imprenditore italiano che tutti sanno e condivido e sono il primo a dichiararlo che fare imprese in Italia è molto difficile, cioè noi dico sempre come correre su un tapirulan avendo uno zaino pieno di pietre rispetto ai miei concorrenti americani piuttosto che rispetto ai paesi emergenti, se per fare uno stabilimento in Italia servono n anni, farlo in America serve un terzo. La burocrazia tutti la conosciamo, lo Stato e il diritto tutti ne siamo consapevoli a che livello sia, cioè quindi quelli che sono diciamo i problemi li conosciamo tutti, io lavorerei e spingerei per risolverli, cioè nel senso passare dal dire al fare, quindi siccome tutti lo sappiamo uniamoci e come dire promuoviamo il fatto che ciò avvenga, quindi ognuno si deve assumere la propria responsabilità, noi imprenditori dobbiamo fare la nostra parte, le istituzioni devono fare la loro parte, ma serve sicuramente un grande cambiamento, Serve un rinnovamento generazionale, questo è molto importante. Ecco, e veniamo all'ultima domanda, che era l'errore che secondo lei i suoi colleghi manager o imprenditori italiani fanno più frequentemente? Ma guardi, io ne faccio tantissimi di errori, solamente che ne faccio talmente tante di cose che se qualcuno la azzecco, diciamo, poi insomma le cose. No, ma magari come approccio, male, come mentalità. Ma cioè, probabilmente pensare in piccolo, nel senso che per tutta una serie di ragioni storiche noi abbiamo ancora in testa il piccolo e bello, questo non funziona più, bisogna essere grandi perché servono delle economie di scala, serve un sistema di acquisto come global sourcing a livello internazionale, quindi ci sono diciamo dei dati che dimostrano che per far sì che le aziende crescano bisogna avere dei fatturati minimi, dipende dalla quota di mercato ovviamente di un'azienda. Gli errori che facciamo spesso è non valorizzare i nostri collaboratori migliori, io parlo anche in prima persona, nel senso che molte volte è anche difficile come dire, individuare i talenti nascosti, perché poi il management, tanti dirigenti, l'organizzazione non sempre li fa emergere, quindi bisogna essere molto attenti agli uomini, molto attenti alle persone, valorizzare i giovani, valorizzare i talenti, ma soprattutto condividere valori, condividere una cultura, condividere un sogno e con tanta passione, cioè alla fine sono sempre questi gli ingredienti. Grazie, anche perché visto che me lo chiedono molti ascoltatori, voi avete 1000 dipendenti su 2000 che lavorano a Cesena e altre 1000 invece sono sparsi nelle 13 filiali Europa, Stati Uniti, Asia, Medio Oriente, Australia, l'età media e Sud America. L'età media è 32 anni e avete quanto avete, mi dica una battuta che siamo fuori tempo massimo, quanto avete speso per questo Techno Gym Village? 65.000 metri. Tutti. Dai, ma, tanto non ci sente nessuno, Alessandro. No, infatti avete una radio che è poco seguita, quindi no, allora non per correttezza non lo diciamo perché un milione? No, beh, insomma, 10 intanto, milioni. Parliamo di cifre molto importanti. 50 milioni. Ma è un investimento per i prossimi 50 anni, ecco, diciamo così, c'è un 50 che ci assomiglia. 50 milioni. 50 anni, cioè per i prossimi 50 anni, noi abbiamo fatto un investimento per i prossimi 50 anni. Va bene, allora auguri per l'importante i prossimi. Faccia ginnastica anche lei perché abbiamo bisogno, mi raccomando. Ma mica sono sovrappeso, ho perso 6 kg, Alessandri, ma che cioè, adesso no, ma mica non chiudiamo con le offese. In forma, non essere... chiudiamo con le offese, vabbè, stai scherzando. No, assolutamente. Grazie, bocca al lupo e domani appunto il Presidente della Repubblica, il Ministro Passera, il Ministro Balduzzi e Bill Clinton tutti a parlare di wellness a Cesena. La chiusura di borsa, parliamo di borsa, è peggiorata nell'ultima mezz'ora, meno 2,30% Milano alla fine, meno 2,40% Parigi, meno 1% Francoforte, tutte peggiorate le borse dell'area euro, si salva Finmeccanica più 0,90%, male le banche. Livia Zancaner, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Peggiorata nel finale, devo dire gli spread oggi hanno rappresentato solo parte del problema, Livia. Allora, in realtà la borsa fino a pochi minuti dal finale di seduta viaggiava intorno a meno 1,7%, perlomeno la nostra, poi nell'ultimo minuto ha praticamente accelerato ma al ribasso e ha chiuso a meno 2,29%. Oggi è stata una seduta a due velocità, nel senso che la mattinata è stata positiva, le borse hanno virato in negativo a partire da metà seduta, l'attesa è tutta per la Spagna, cioè per gli stress test sulle banche spagnole che saranno comunicati a breve e per la revisione di Moody's sul debito di Madrid, che potrebbe essere declassato a livello spazzatura entro la fine del mese o anche più avanti. E questo è lo scenario generale, chiaramente ne risultano penalizzate maggiormente le banche, Popolare Emilia Romagna meno 4,70, Popolare Milano meno 4,22, Unicredito meno 3,60, Ubibanca meno 3,1 come Intesa San Paolo, il 2,90 lo perde il Monte dei Paschi, il 2,80 al Banco Popolare, male anche A2A meno 4,30%, Mediaset meno 3,90%. Al di là delle banche, A2A. Sì, allora A2A ha risentito del calo del comparto utility che a livello europeo ha perso oltre l'1%. Ricordiamo che su questi titoli sono particolarmente penalizzati dai timori della recessione, in quanto si tratta di società fortemente legate all'andamento del ciclo economico per quanto riguarda inoltre A2A. In particolare bisogna ricordare che le società con un alto livello di debito in un periodo in cui gli spread salgono sono comunque penalizzate. Questo vale per tutti, non solo per A2A, anche per altre società che hanno grossi grossi debiti. Devo dire in positivo, Finmeccanica bene, ci sono nuove indiscrezioni sulla vendita di Ansaldo Energia alla Siemens. Sì, allora a tenere banco per Finmeccanica sono sempre le voci sulla vendita di Ansaldo Energia. In questo caso le voci parlano di una vendita a Siemens, le parti starebbero negoziando il prezzo, si attende una conclusione dell'operazione per la fine dell'anno. Siemens sarebbe pronta, secondo sempre le voci di stampa, a pagare 1,3 miliardi di euro per il 100% di Ansaldo Energia, quindi Finmeccanica ha beneficiato delle voci e ha chiuso in territorio positivo. Ancora tra chi oggi se l'è cavata meglio, Diasorin più 0,40%, in realtà Diasorin ha fatto un più 13% da settembre, da inizio settembre? Sì, il titolo ha fatto molto bene, ha chiuso il mese di settembre con un rialzo complessivo del 13,7%, a fronte invece di un indice FTSE MIB in rialzo più o meno del 2% o qualcosa meno. Le stime degli analisti, ricordiamo, per Diasorin per la fine dell'anno sono positive, grazie anche ad alcuni settori che sono anticiclici rispetto al mercato e quindi alla crisi economica. Tra chi poi si è salvato, cito anche Pirelli, più 0,18%, qui c'è un ragionamento sui margini di crescita, mentre tra i migliori e peggiori in assoluto, Grandi Viaggi più 10%, Dea Capital più 8,50%, fronte opposto invece Zucchi meno 8,40%, Meridiana meno 7%, Class meno 6%, oggi deboli tutti i gruppi editoriali, Telecom Italia Media meno 6,50%, perché tra l'altro la controllata spagnola di RCS ha dato stime sulla raccolta pubblicitaria e sulle vendite molto molto negative. Camfin meno 4,30%, Tiscali meno 4,71%. Grazie e buon fine settimana ai colleghi di Radio Corri Sole 24 Ore. Grazie Livia Zancaner. Grazie anche a voi, buonasera. E adesso noi torniamo non sul tema di apertura, devo dire sul tema che purtroppo ci sta accompagnando da settimane. È un tema classico di elezione di Focus Economia, mi riferisco al federalismo aggravato, perché il federalismo è un principio in primo luogo economico nella gestione della cosa pubblica e dell'amministrazione dello Stato, ma aggravato dalle inchieste e dagli scandali. Cerchiamo di parlarne con chi da sempre ne ha fatto la sua battaglia, il suo cavallo di battaglia politico. E sta diventando tardi, soprattutto per riformare da un lato le regioni e capire quale forma di federalismo vogliamo. Lo dico perché ricordavamo in apertura del programma le inchieste della Guardia di Finanza in Piemonte, in Emilia Romagna, c'è quella in corso anche alla Regione Sicilia, c'è quella notissima della Regione Lazio e c'è anche l'intervento oggi del Presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, sul Sole 24 Ore, che dice sostanzialmente questo federalismo così com'è non va, occorre più trasparenza, maggiore controllo. Federalismo non significa ciascuno padrone in casa propria e qualcun altro che poi paga il conto. Nel frattempo a Torino, al Lingotto, è iniziata oggi da due giorni degli Stati Generali del Nord, sempre in tema di federalismo, promossi dalla Lega. Incontra la Lega imprenditori e manager in varie sessioni tematiche. Domani invece verranno tirate le somme dei lavori con personalità, tra cui appunto il presidente Confindustria Squinzi, quello dell'Acri Guzzetti, il ministro Corrado Passera e l'intervento poi del segretario Maroni, previsto alle 12 con la presentazione del manifesto del Nord. E siamo in collegamento proprio con il segretario federale della Lega Nord, Roberto Maroni. Buonasera segretario. Salve, buonasera. So che lei ama più il jazz, il sax, noi abbiamo messo una musica un po' moderna, ma... Se è buona musica va bene, ecco, tutto. E che musica è quella che sta suonando in questo momento il federalismo? Il federalismo sta suonando una musica che ancora non c'è, è una musica futura. Quello che oggi viene considerato come un sistema che non funziona, erroneamente considerandolo un sistema federale, non è il federalismo, non è quello che deve esserci, non ci sono pesi e contrappesi di un sistema federale vero, siamo ancora a metà strada, siamo nella palude, le degenerazioni derivano proprio dal fatto che non c'è un sistema federale come quello degli Stati Uniti, come quello in Germania. Se ci fosse, queste cose, le assicuro, non sarebbero successe. Mm. 18 e 9 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, e stiamo ragionando con il segretario della Lega Nord Roberto Maroni, visto che oggi c'è stata la prima giornata dei due giorni di incontro tra la Lega e il mondo dell'economia, un centinaio tra imprenditori, domani appunto il presidente delle fondazioni bancarie Guzzetti, Squinzi, presidente di Confindustria, il ministro Passera, e la presentazione del manifesto del Nord. Stiamo ragionando di questo federalismo che insomma non funziona. Lei, Maroni, diceva: sono d'accordo con la lettera che ho già scritto su Sole 24 Ore, il presidente di Confindustria Squinzi, il federalismo così com'è fatto non va. E Squinzi dice anche però c'è troppa libertà di spesa a fronte di una irresponsabilità fiscale nel prelievo. Sono d'accordo su questa affermazione, contesto il fatto che questo è un sistema federale, non è così. Noi abbiamo approvato nel 2009 una legge sul federalismo fiscale che non è ancora attuata e che non, il governo Monti non sta attuando, che prevede il principio, alcuni principi, tra cui quello del costo standard delle prestazioni sanitarie, per esempio, rispetto al rimborso spese a piedi lista. È il rimborso spese a piedi lista dove qualcuno prende i soldi e qualcun altro paga, i contribuenti del Nord in particolare, che genera questa irresponsabilità a cui il presidente Squinzi fa riferimento. E sono contento che abbia posto il tema, perché domani sarà il tema centrale della giornata conclusiva degli Stati Generali del Nord, e la sua presenza è molto significativa da questo punto di vista. Ma quindi lei è d'accordo, insomma, che si debba fare un altro tipo di federalismo? Per esempio Squinzi nel suo intervento oggi citava il prelievo fiscale, che è in realtà un addizionale a tasse già esistenti a livello nazionale, addizionale IRPEF, addizionale regionale o comunale. Noi abbiamo convocato gli Stati Generali del Nord con la presenza di un centinaio di imprenditori, di manager di primo piano, gente che ha un'impresa, che lavora, che produce ricchezza, proprio per capire, per sentire le loro opinioni, le loro proposte, le proposte del mondo produttivo su questi temi, in particolare quello fiscale, ma non solo quello fiscale. E le cose che stanno uscendo sono proprio queste: l'eccesso di carico fiscale che drena risorse improduttive, che frena lo sviluppo e che, in assenza di controlli mirati, precisi e rigorosi, porta a queste degenerazioni. Bisogna continuare sulla strada della riforma che noi abbiamo iniziato anni fa e che non si è ancora realizzata compiutamente. Però mi scusi, segretario Maroni, per carità, sappiamo tutti, l'abbiamo detto più volte, che questo federalismo è un'incompiuta e nemmeno tanto bella, perché ha creato molti pasticci, trasferimento di competenze parziali e poi soprattutto, come si diceva e come dicevamo anche nei mesi scorsi, l'assenza di un prelievo fiscale completamente autonomo non rende poi responsabile, diciamo, la spesa delle regioni, mettiamola così, cioè se tu sai quanto prelevi, quanto fai pagare ai cittadini, poi stai anche più attento e sei più controllato. Però a mio avviso qui si pone anche un problema di etica oltre che di estetica a guardare certi personaggi, nel senso che Fiorito sta al PDL laziale come Belsito stava alla Lega diciamo pre nomina sua. Va bene il modello federale, però non basterebbe non rubare? Assolutamente sì, io sono di quest'idea che l'onestà è la prima e più importante caratteristica che devono avere in generale gli uomini, in particolare chi fa politica. L'onestà e il rispetto degli altri, e sono due cose che sono completamente mancate nella gestione delle vicende che lei ha citato. Noi abbiamo reagito prontamente e abbiamo svoltato, abbiamo girato pagina, e adesso anche gli Stati Generali vogliono dimostrare questo, che c'è un rinnovamento profondo all'interno della Lega nella gestione delle cose interne e nella gestione anche nel rapporto col mondo esterno. Bisogna dialogare, bisogna farsi contaminare in senso positivo dall'etica soprattutto del mondo delle imprese, di chi rischia, senza pensare che comunque qualcun altro pagherà il conto. Però, lo ripeto e lo sottolineo, questo sistema è un sistema che si basa sull'irresponsabilità di chi spende e non è il sistema federale. Chiamare questo federalismo è sbagliato, questo non è un sistema federale, è un sistema diverso. Il sistema federale, quello che noi abbiamo disegnato con la legge sul federalismo fiscale, prevede piena responsabilità nella spesa, piena autonomia, ma con i tributi propri. È per questo che la proposta che la Lega ha fatto e che farà e sosterrà è quella che, per quanto riguarda le regioni del nord, almeno si possa creare un'euroregione dove almeno il 75% del gettito fiscale rimanga sui territori, sotto la diretta responsabilità degli enti locali, dei sindaci e delle regioni. La responsabilità è un concetto fondamentale che oggi manca nel sistema attuale. Allora sì, poi vorrei capire che cosa succede però se poi una regione spende troppi soldi e li sfora, cioè per esempio l'autonomia che noi abbiamo in Italia è quella delle regioni autonome. Beh, non è che lì non è che gli esempi lì siano sempre virtuosi. Abbiamo visto un aeroporto in Val d'Aosta costare 30 milioni di euro e mai essere utilizzato, ha smesso di volare. La Sicilia sappiamo che non è esattamente gestita come un land tedesco e via così, per cui vorrei capire se veramente siamo sicuri che... Guardi, il principio è molto semplice, le regole, le cose di buon senso sono quelle più semplici. La Lombardia, il Piemonte, il Veneto, il Friuli, l'Emilia, tutte le regioni hanno un gettito fiscale che corrisponde a 100. Oggi mediamente Lombardia, Piemonte e Veneto ricevono 35-36 di questo gettito fiscale e il resto sono sovrattasse, sono sovraimposte, sono giri strani dal centro alla periferia. Manca la responsabilità diretta. Qualunque sindaco può dire: io non ho i soldi, mi vengono dati, forse sì, forse no. Noi diciamo che di questo gettito fiscale posto 100 il 75% rimane e quella è la spesa che le regioni possono utilizzare. Spendono di più, dovranno chiedere ciascuna regione ai propri cittadini e non al governo centrale o a qualche altra regione di pagare. Qui sta la responsabilità. Dopodiché io sono responsabile dei soldi che ho, li spendo come ritengo di doverli spendere, in piena trasparenza, pubblicazione dei bilanci, ma se sforo io sono responsabile nei confronti dei miei cittadini. Tutto ciò negli ultimi decenni non è avvenuto perché le regioni meno virtuose, in particolare quelle del sud, hanno sempre beneficiato di un rimborso spese, in particolare in materia sanitaria, a piedi lista a carico delle altre regioni. Qui sta il cambiamento vero di logica. Allora sì, si può parlare di federalismo. Allora, le cito adesso dal Sole 24 Ore di questi giorni alcuni dati. Dall'anno del debutto del federalismo al 2010, cioè dal 2001 di questo federalismo al 2010, le spese correnti, quindi non gli investimenti, le spese di gestione delle regioni sono lievitate del 40%, cioè da 107 a 151 miliardi di euro. Di conseguenza è aumentato anche il peso del fisco regionale, più 50%. Le faccio la lista delle regioni. La Campania ha fatto più 448% nelle spese per consumi, il Molise più 108, la Puglia si distingue per le spese di consulenza, più 664% in 10 anni, la Sardegna più 500%, la Sicilia più 312, la Calabria segna il record nelle spese per gli organi politici, più 313% in 10 anni, segue l'Emilia Romagna più 200%, la Liguria più 180. E chi ha contenuto l'incremento, ridotto le spese, si distingue, cioè, soprattutto Marche e Lombardia. Cioè, questo è un panorama in cui, al di là del colore politico, se posso permettermi, della regione e anche delle volte dell'ubicazione geografica, la sensazione che si ha è che ci sia stato un liberi tutti nella gestione dei conti delle varie regioni, ognuno sulle sue voci. Ma lei ha citato le prime 5 o 6 regioni meno virtuose nella classifica della non virtuosità, sono quelle del sud, no? Ed è quello che dicevo io, perché l'aumento è avvenuto soprattutto per quanto riguarda la gestione della sanità, per, in base al principio del costo storico. Io spendo tanto in sanità per la spesa sanitaria e poi lo Stato mi rimborsa. Nel federalismo fiscale, legge che noi abbiamo provato ma che, ripeto, non è attuata dal governo Monti, c'è il costo standard. Si fa la media tra la prestazione che costa meno, una radiografia a Milano e a Palermo, quella che costa meno e quella che costa di più, si fa la media e si rimborsa la media. Quindi chi è virtuoso ci guadagna, chi è spendaccione deve chiedere ai propri cittadini il rimborso. Allora si introduce il principio di responsabilità. Quello che lei dice, il federalismo fino al 2010, non è il federalismo, è stata la riforma del titolo quinto, voluta dalla sinistra nel 2001, che non c'entra molto col federalismo. Dobbiamo intenderci sui termini, perché se si vuole far polemica e dire il federalismo è fallito, ok, io dico a ragion veduta che questo non è un sistema federale, non è il federalismo che la Lega propone e che la Lega ha attuato, ha approvato con la legge sul federalismo fiscale. Mi scusi, sono due cose diverse. Segretario, ancora due domande. Dopodiché, detto questo, è chiaro che c'è una necessità che i partiti riprendano a fare una selezione adeguata del proprio personale politico, perché non c'è regola che tenga se mandi lì un mascalzone o uno che fa politica per arricchirsi. Di nuovo in diretta per l'ultima parte di Focus Economia. Allora, segretario federale della Lega Nord Roberto Maroni, dicevo, insomma, voi stessi siete stati travolti nel passato da scandali dall'utilizzo interno di soldi. Quando lei è arrivato poi alla segreteria c'erano i suoi supporters che contro Rosi Mauro, contro Belsito, agitavano le scope come simbolo di polizia. Lei non teme che adesso ci sia il rischio di passare dalle scope ai forconi? In che senso? Nel senso che sta montando un discredito ulteriore per la classe politica da parte della società civile cosiddetta. Questo è indubbio. La politica può ritornare con la P maiuscola e io ci credo se saprà fare autocritica, ma soprattutto se saprà dimostrare di cambiare, di riformarsi e di rinnovarsi. Altrimenti il rischio è che la democrazia rappresentativa, cioè uno diventa parlamentare, diventa sindaco, diventa presidente perché viene eletto dal popolo sovrano, ceda il passo a qualche altra cosa. Uno viene nominato esternamente perché i meccanismi di selezione democratici non garantiscono personale adeguato. È assolutamente fondamentale ed è nel mio piccolo quello che io sto facendo da tre mesi all'interno della Lega. Due domande ancora, segretario Maroni, ma non vi sarebbe convenuto restare in questo governo, o meglio appoggiare esternamente come fanno i partiti questo governo per riuscire a portare a casa il federalismo? Visto che mancano i decreti attuativi. Questo governo la prima cosa che ha fatto è stato il decreto per Roma Capitale, il federalismo l'ha bloccato e a ragion veduta, visti i risultati di questo governo, soprattutto nel nord, io dico che la Lega ha fatto bene a stare all'opposizione. Oggi e domani con tutti gli imprenditori che sono qua all'ingotto di Torino per gli Stati Generali del Nord, noi stiamo sentendo voci di dissenso rispetto al governo Monti, voci di preoccupazione e la posizione più diffusa è che questo governo non solo non ha risolto la crisi ma l'ha aggravata. È per questo che noi cerchiamo soluzioni alla crisi che il governo Monti finora non ha trovato e sarà molto interessante sentire domani mattina il ministro Passera che aveva proposto, proprio il suo compito era quello di creare le condizioni per lo sviluppo e sarà interrogato dagli imprenditori. Ci sarà un question time al ministro Passera che sarà interrogato per chiedere come mai le misure promesse non sono state attuate e lo sviluppo, che era uno dei punti principali del governo Monti, ancora non c'è. Ma lei crede che ci sarà a questo punto comunque un Monti bis dopo l'apertura di Monti di ieri? E cioè che i mercati, le pressioni internazionali chiederanno un governo tecnico da aprile marzo in poi, oppure, stando alle proiezioni che vediamo, magari vincerà il centro-sinistra e ci sarà un governo politico? I mercati possono decidere che governo ci sarà quando avranno diritto di voto. per fortuna in democrazia sono i cittadini che votano e il popolo sovrano, e io sono un sostenitore dei principi democratici. Il presidente Monti vuole fare il presidente del Consiglio dopo le prossime elezioni, bene, non può, non deve fare altro che candidarsi e avere il suffragio del popolo sovrano. Questa è la democrazia. Se poi pensiamo che adesso ormai siamo in una società post-democratica, dove le regole democratiche non valgono più, beh, basta dirlo, io non sono di quest'idea. Chiunque può partecipare alle elezioni, ma deve partecipare alle elezioni. Il prossimo presidente del Consiglio, mi auguro davvero che sia il presidente che il popolo sovrano italiano deciderà di avere a Palazzo Chigi. Ecco, lei, voi dentro la Lega, lei ha come colonnelli, chiamiamoli così, fedeli collaboratori, il sindaco di Verona Flavio Tosi e il rappresentante della Lega in Lombardia che è Matteo Salvini, sono tutti e due dei quarantenni. C'è dentro il PD un grosso dibattito sulla figura di Renzi. A lei piace Renzi, sì o no? Giusto per capire. Renzi mi sta simpatico, l'ho già detto più volte, è un ragazzo coraggioso. Non entro nel merito delle proposte che fa perché francamente non le ho ancora sentite. Ho sentito battute, slogan, il nuovismo, la rottamazione dei vecchi. Io non sono un nuovista. Mi sono impegnato nel rinnovamento della Lega, i nomi che lei ha citato sono due, ma ce ne sono tantissimi altri, c'è Luca Zaia, governatore del Veneto, c'è Roberto Cotta, governatore del Piemonte, abbiamo tanti giovani su cui puntare e io punterò su questi, però il nuovo deve avere anche dei contenuti, altrimenti presto diventa vecchio e forse diventa peggio del vecchio. Ma quindi secondo lei Renzi è nuovo ma vuoto? No, io ho detto che non commento, non posso esprimere un giudizio sui contenuti perché non li ho ancora sentiti, non ho sentito che cosa vuole Renzi, che cosa propone Renzi. Lo vedo che va in giro, che si fa vedere, che si fa fotografare lì alle sfilate della moda, benissimo, ok, è il nuovo forse, però vorrei capire una volta che diventa Presidente del Consiglio che cosa fa. Che cosa fa per le imprese del nord, che cosa fa per i territori, che cosa fa sul fisco. E un'ultima domanda riguarda invece il PDL, i vostri ex alleati, poi non so se correrete con loro alle elezioni alla fine o in alcuni collegi. Lei parlava del rinnovamento, insomma noi vediamo un PD diviso tra, quasi anagraficamente tra la vecchia guardia e i rottamatori, e un PDL invece, come a mio avviso ha scritto molto bene Galli della Loggia qualche settimana fa sul Corriere, completamente ancora tra virgolette ostaggio della figura di Berlusconi, cioè non si riesce a capire se Berlusconi non scenderà in politica chi sarà il nuovo segretario. Lei ritiene che il PDL dopo quello che è successo nel Lazio riuscirà veramente a far pulizia come avete fatto voi o avete comunque tentato di fare cambiando radicalmente i vertici? No, noi non l'abbiamo tentato, noi l'abbiamo fatto, forse è sfuggito a qualcuno che noi abbiamo fatto un congresso federale il 1° di luglio che ha nominato un nuovo segretario federale, e cioè Umberto Bossi non è più segretario federale ed è il sottoscritto, e le assicuro che nella Lega una cosa del genere non è stato un passaggio né facile né indolore, ma è stato un cambiamento vero. La stessa cosa non c'è stata in altri partiti, nel PDL. Noi le scope le abbiamo non solo evocate ma usate. E il rinnovamento, il cambiamento, questa fase, questo processo nella Lega si è iniziato davvero. Io dico largo ai giovani, ma largo ai giovani con dei contenuti, e la due giorni degli Stati Generali serve a questo. Che cosa succederà nel PDL? Guardi, io sono occupato e preoccupato di ciò che succederà nella Lega, sto a vedere, seguo con attenzione, ma non è compito mio dire o dare suggerimenti a Berlusconi. Ma secondo lei Berlusconi funge da tappo, nel senso su sviluppi futuri, non avendo chiarito se si candiderà oppure no? Non lo so, non sono un dietrologo e non mi interesso di queste cose. Sto a vedere, osservo naturalmente, perché ciò che succede nel PDL non è rilevante per noi, così come ciò che avviene nel PD, ma adesso la mia preoccupazione è fare in modo che la Lega possa aggiornare il suo programma, mandare avanti i giovani e presentarsi come un partito fortemente rinnovato. Allora, grazie, in bocca al lupo sia per oggi il rapporto è chiuso, domani invece appunto alla presenza del ministro Passera, il question time, tra virgolette, a Passera, e poi il presidente delle fondazioni bancarie Giuseppe Guzzetti, di Confindustria Squinzi e gli imprenditori invitati. Grazie, in bocca al lupo, come facciamo a tutti gli ospiti, al segretario federale della Lega Nord, Roberto Maroni. Grazie a voi, buonasera.